vuoi venire a morire? A stornellare, porta del vino e metti di sedere. Puntata numero 4 di Ratto di Campagna Topolino di Città, il programma di Radio Big World che esplora il mondo delle metropoli e in particolare cerca di insegnare a me, che ne so zero e che sono un rattone di campagna, cerca di insegnare anche agli altri rattoni come me come ci si comporta in città, visto che prima o poi a Firenze ci toccherà unirsi. E naturalmente, come farei io che sono di campagna, io che sono un ignorantone popolano, a sapere come si vive nella città? E allora, per guidarci attraverso il nuovo bon ton metropolitano, abbiamo colei che, mentre io andavo a scuola con gli zoccoli, aveva già le scarpe americane ultimo grido, e cioè Laura! Ciao Giorgio, buonasera a tutti. Laura, ben trovato. Oggi, carissimo. Laura, grazie, sono maleducato, io subito andavo al sodo, qui siamo gente che si pianta il seme e ci piace vedere il pomodoro. E oggi gradirei chiederti come ci si comporta nei confronti degli indirizzi, delle vie, dei quartieri della città. E la prima curiosità che salta agli occhi di ogni campagnolo è quella che a Firenze i numeri hanno un colore. Anzi, hanno un colore e poi hanno pure un altro numero. Tipo, recentemente sono capitato a Firenze e l'indirizzo era via Mameli 25 rosso 83 civico, che era scritto di nero. Ma come ci si orienta in questa giungla di colori? Allora, la giungla di colori è semplicemente composta dal rosso e il nero. E, la roulette, insomma, uno va lì e dice: oh, prima o poi lo troverò. Però guarda, c'ha ragione, perché molto spesso, anzi sempre, la numerazione rossa va per conto suo e quella nera lo stesso. Quindi tipo, se te cerchi il 17 rosso, vedi un 15, dici ci sono vicino, e invece no, perché il 15 magari è nero e la numerazione nera segue un suo ordine. La numerazione rossa è per esercizi commerciali, lo sapevi? Ah, vedi? Vedi quante cose si scoprono? Fa ditta per conto suo, come dite voi. La difficoltà sta nel... no, veramente, comunque io l'abolirei questa distinzione, perché davvero non sai a che altezza della via puoi trovare un numero rosso, se ci sono tutti i numeri neri o viceversa. Per le vie corte non è un problema, ma per le vie lunghe è un problemone, sì, effettivamente. Quel doppio numero che dici tu, non lo so, forse era un interno? Boh. Chissà. Però sai che cosa c'è anche di difficile? Le lettere che ti incasinano ancora di più. Come le lettere? Sì, perché c'è il 91A, il 91B, il 91C, a volte arrivano fino a, non ti dico la Z, ma quasi. E allora, se tu dici devi andare al 91, dici ci sono. Sì, ci sono. Magari sei al 91A. Per arrivare al 91R, che non è rosso in questo caso, ulteriore confusione, devi fare magari un altro chilometro di strada. Pensate, incredibile. Pensa che giungla di numeri e di case e di negozi. Vabbè, già che parliamo di vie, quando eravamo bambini, all'epoca, insomma, cominciavano le televisioni commerciali e cominciavano le televisioni locali. Ovviamente la città era quella che ne aveva di più e che le aveva di maggiore qualità. E certi personaggi, in particolare certe attività commerciali che si pubblicizzavano su quei canali e che poi qualcuno è diventato una star a livello regionale, mi viene in mente, ora non è di Firenze, ma tipo un Riccardo Corredi, chiunque lo conosce in Toscana, ma insomma, per far capire alle persone esattamente la posizione del negozio o dell'attività, si dava un'indicazione geografica e in particolare quello che gli inglesi chiamano il landmark, e in particolare si diceva che il tale negozio era all'angolo di, tipo via Rossetti all'angolo di via Rossati. Angolo, senza al. Ok, la formula è angolo. Ma perché, scusa, ma tu quando uno straniero ti chiede di dove sei, che cosa dici? Beh, la cosa è complicata. Dici di Montevarchi, vicino Firenze. Ecco, diciamo che questo angolo sta per dare un riferimento di una via più famosa, indubbiamente. Allora, se tu hai un'attività commerciale in una viuzza che nessuno conosce, se invece questa via è angolo via Mazzini, che magari è una via trafficata, conosciuta, lunga, importante, allora tutti si possono trovare. Non a caso hai detto che è un modo di dire della pubblicità, no? Quindi torna, la tua viuzza è sconosciuta, stai vicino a... è un po' come Montevarchi e Firenze, dai. Beh, da noi per indicare i posti si dice: sì, davanti al meccanico, ha presente dove c'è quel mucchio di pneumatici, oppure sì, accanto al barbiere. Sì, informalmente si può fare anche noi, dai, però ecco, se lo devi dire ufficialmente non guasta dare un riferimento più famoso. D'accordo, quindi dà più tono dire: no, in via Isidoro angolo vicolo angolo del Perlino. D'accordo. Ma quante cose ti insegno. Ma incredibile, per sopravvivere a Firenze c'è da saperla lunga. E già che parliamo di vie principali, insomma, la pubblicità indicava una via principale che più o meno tutti conoscevano, con una via che in realtà era poco conosciuta. E qui viene da domandarsi: ma i fiorentini quante vie principali conoscono? Ce ne saranno tantissime. Come fate a sapere e a ricordarvi i nomi delle vie e dove stanno? Male, allora, parlo per me, perché non ho un buon senso dell'orientamento. Quindi prima usavamo il vecchio caro stradario. Usate anche voi, dai, su questo. Lo stradario, insomma, beh, quello del tutto città era solo un paio di pagine, insomma, lo stradario non è che era proprio enorme. Niente, quindi con lo stradario si andava a vedere dove era la via. E magari è così, io cercavo una via accanto che conoscevo per così localizzare meglio il posto dove dovevo andare. Adesso ci sono le mappe sul navigatore, sul cellulare, e così facciamo. Il problema spesso è che se ci devi arrivare in macchina e non sai se c'è senso unico o se ci puoi andare o non ci puoi andare, e allora insomma sorge qualche problema. Qual è stata la prima via che ti sei memorizzata nella tua vita da fiorentina? Una via lontano, non lo so, e dici: guarda, questa è la prima che ho imparato. Ah, che domanda. La prima via che ho imparato, ma forse via Bolognese, perché è famosa, no? Come stai, ci sono a Firenze via Senese, via Pistoiese, via Pratese, no? A seconda della direzione verso la quale conduce quella strada, se la fai tutta o se la facevi tutta un tempo, magari insomma quando non c'erano le autostrade ti conducevano veramente verso quella città. E via Bolognese me la ricordo forse perché, non so, da piccola andavo a fare qualcosa lì vicino e mi è rimasta impressa, perché io abito vicino a via Senese e allora ho fatto un collegamento, ho detto: ma di qua si va a Siena, di là si va a Bologna, e mi immaginavo queste due città, Siena e Bologna, proprio magari dietro l'angolo. Invece insomma proprio dietro l'angolo non sono, però queste vie ti danno la direzione. Quindi ai tempi in cui non esisteva la cartellistica stradale, si dava il nome alla via, il nome della città a cui conduceva, in modo tale che chi la percorreva sapeva dove stava andando. Geniale. Sì, però così almeno sai anche che se vai via Bolognese vai verso nord, se vai via Senese vai verso sud. Guarda che per quelli che hanno scarso senso dell'orientamento è ancora utile questo modo di chiamare le strade. Una città è fatta di strade, è fatta di viali, ma una città è fatta anche di quartieri, e quantomeno in Toscana il quartiere, il rione, la contrada hanno una loro importanza. Qual è il rapporto rapporto con gli altri quartieri, per un fiorentino che è di un quartiere specifico. È un rapporto sereno, non ci si fa neanche caso, oppure in qualche modo conta? Vabbè, ovviamente dai, è sereno, insomma, siamo tutti nella stessa città, però può contare, nel senso che quando si avvicina il calcio storico, che tu ben sai è lo sport dei fiorentini doc, che si menano in mezzo... Dei galeotti che si menano, è un grande sport. Allora ci sono i bianchi, i rossi, gli azzurri e i verdi, e ogni colore identifica un quartiere. Ecco, i fiorentini veri, quelli che seguono il calcio storico, che sono nati e cresciuti a Firenze, la sentono questa differenza proprio in relazione ai colori. Quindi sì, guarda, ti dirò. Per il resto, vabbè, ovviamente non sono delimitati i quartieri, no? Sono aperti a tutti coloro che ci transitano, e però il bello anche degli ultimi anni è che i quartieri si stanno un po' vivacizzando, offrendo magari quelle belle cose che offre anche il paese, nel senso si fa due chiacchiere volentieri con l'ortolano, col pescivendolo, si instaurano rapporti amichevoli, perché insomma è anche bello, no? Non andare al supermercato e andare nelle botteghe di quartiere, ricreare appunto quell'atmosfera un po' paesana che sicuramente è positiva. Ci sono le notti bianche che hanno preso piede negli ultimi anni e che vedono protagonisti a turno un quartiere anziché un altro. Già una strada chiusa al traffico con tante bancarelle e tante cose in più, insomma, fa unione all'interno del quartiere. Quindi anche la grande città in qualche modo cerca di recuperare l'esperienza del paese e del contado. Sì, sì, sì, esatto, sì, sì, sì. E questo mi fa piacere perché sono belle iniziative, sono... sì. Quindi spirito di quartiere c'è comunque a Firenze, sebbene i confini non siano nettissimi e che quindi ci siano varie sovrapposizioni o varie zone grigie. Ma... con la gente di altri quartieri si socializza, si ma cerca... certo, ma sì, ma dai, su. Vabbè, che il fiorentino è chiuso, ma se dovesse anche precludersi la socializzazione con gli altri fiorentini, insomma, già il fiorentino è un po' chiuso verso tutti coloro che sono fuori dal comune di Firenze, dai. Abbastanza. Abbastanza. E più vicini sono a Firenze e più sono esclusi, sicché figurati te, vige un bizzarro modo di stare insieme tra fiorentini e di considerarsi tali. Quindi mi dici che non esiste il fatto, o esiste molto poco il fatto che ne so, due di Porta Romana che dicono non ci parlare con quello, è di San Frediano, oppure due di Santa Croce che dicono stai attento a cosa dici, perché quello è di Novoli. Questa cosa non c'è. Magari dovresti sentire Calcianti, secondo me loro sì, Calcianti, cioè i giocatori del calcio storico. Però insomma un po' limitato a loro probabilmente. D'accordo, d'accordo, d'accordo. Guarda, ti dirò che da noi in paese invece questa cosa è abbastanza sentita, tanto che da noi c'è un quartiere che si è autoproclamato frazione, quindi figurati. Una cosa che succede per esempio in questo quartiere che si è dichiarato frazione è che Non fai nomi. No, non puoi. Cerco di non farli, ma nel senso, hanno addirittura una squadra di calcio, pensate, in Figicci. In questo quartiere chi, per esempio, si sposa o chi va via da casa dei genitori e va a vivere per conto suo, cerca di rimanere nel quartiere. E in effetti la tendenza generale, almeno qui da noi, è più o meno questa. E cioè, sì, va bene, probabilmente si va a vivere da soli ma vicino a mamma e babbo, O quantomeno vicini alla gente del quartiere, ai punti di riferimento, il bar, i punti di ritrovo, determinati parchi per chi è cattolico, la propria parrocchia, insomma. E a Firenze invece succede una cosa simile, oppure che vi frega dove vi trasferite, preferite però restare a Firenze? Allora, tendenzialmente il fiorentino resta a Firenze, non lo fa spostare nemmeno a Scandicci, perché insomma ne va della propria dignità, sembra a volte. No, comune di Firenze, vabbè, ma è uguale, no? 5 minuti ci sei, 10 minuti ci sei, no, comune di Firenze. Però a volte per motivi economici, perché le case fuori costano meno, qualcuno cede. Il quartiere, se piace, sì, si tende a non abbandonarlo, ma secondo me è più per la vicinanza ai genitori, soprattutto i figli più bamboccioni, oppure i figli che vogliono mettere su famiglia, prendono casa vicino ai genitori, perché insomma, come tu ben sai, i nonni danno una grande mano, e allora si tende per comodità a rimanere nei paraggi, sì. Ecco, più per questo. Concludiamo questa nostra puntata sulle strade, sulle vie, sui viali e sui quartieri con una domanda che a chi vive in una città grande probabilmente è più di impatto che per chi vive in realtà più piccole, e cioè: abbiamo assistito dal dopoguerra a oggi, e questo a livello mondiale, alla più grande fase di inurbamento della popolazione che sia registrata a memoria d'uomo. E praticamente oggi la gran parte di quelli che un tempo vivevano in campagna oggi vive direttamente in città. Vive anche in realtà più piccole, è chiaro, e quindi anche i paesi piccoli si sono ingranditi, ma mai come si sono ingrandite le città, e senz'altro il ritmo con cui nuovi quartieri vengono costruiti, nuove circoscrizioni vengono create, non è quello della provincia. E in particolare Firenze negli ultimi anni di quartieri nuovi ne ha aggiunti tantissimi, tanto che sta addirittura inglobando i comuni che gli stanno intorno. Sesto Fiorentino, che praticamente è una metropoli per conto suo, proprio grazie alla vicinanza di Firenze ha visto un trasferimento in massa di persone e poi ora è praticamente unito a Firenze. Come vive il fiorentino, come vive il cittadino questo enorme allargarsi e rapidissimo allargarsi della sua città? Carissimo, io o chi come me vive a due passi dal centro storico, sinceramente insomma ci fa poco caso, perché alla fine Firenze è Firenze, il centro. Per noi fiorentini doc, Firenze è sempre quella. Cioè tutto il resto che viene inglobato, sì, è periferia, ma non la consideriamo neanche Firenze più di tanto, perché per noi Firenze è Ponte Vecchio, San Frediano, possiamo arrivare a Via Gioberti, ma insomma siamo un po' legati alla vecchia città. E le periferie ben vengano per chi magari si vuole trasferire, vuole comprare casa spendendo un po' meno soldi e sentendosi pur sempre fiorentino, però ecco, per noi che stiamo vicino al centro, insomma, questa espansione insomma non ci colpisce molto, dai. Un po' come in certi film di Francesco Nuti, dove Francesco Nuti metteva Firenze tra i personaggi del film nei titoli di coda. Firenze alla fine è Firenze. Infatti, però dai, ben venga l'espansione e tutto ciò che ci fa ampliare e magari ci farà essere un pochino più aperti. Ebbene, oggi abbiamo imparato a diffidare di coloro che si dicono fiorentini ma che non abitano nel comune di Firenze. Quindi occhio popolani, occhio campagnoli, quando siete a Firenze sottolineate che la vostra casa è amministrativamente nel comune di Firenze. Benissimo. Laura, grazie dei tuoi preziosissimi consigli. Ma figurati, grazie a te. Alla prossima. Grazie della tua pazienza, perché insomma un rattaccio di campagna come me, che non sapeva neppure i numeri rossi e i numeri neri. La prossima volta mi perdo serenamente appena uscito dalla stazione. Benissimo, un bacio, a presto. Ringraziamo anche gli ascoltatori di Radio Big World che con grande pazienza sono giunti fino a qui, e ci diamo appuntamento per il prossimo tuffo nella vita metropolitana. Grazie.